Voci di piccola impresa, idee anticrisi, di Anna Marino. Benvenuti a Voci di piccola impresa, idee anticrisi. Cibo, moda, consumi, energia, lavoro, social media, tutto quello che ci gira intorno sta cambiando. E noi? E le imprese rispondono a queste esigenze? Sanno che si aprono nuovi mercati anche in tempo di crisi e che questo è il futuro? Come dimostra anche l'Expo, che si svolgerà a Milano tra il 1 maggio e il 31 ottobre del 2015. Parole come innovare, rispettare l'ambiente, ricerca, tecnologia, nuovi stili di vita si coniugano bene con il tema scelto nutrire il pianeta, energia per la vita, e le strade per arrivare alla sostenibilità sono molte. Lo sanno bene le imprese che ce l'hanno nel cuore e che possono portare appunto all'Expo le loro best practice, cioè quei casi di eccellenza che realizzano cambiamenti, superano gli ostacoli, aiutano altri settori e sono replicabili. Ma la testimonianza di questi valori dovrebbe essere presente in tutti luoghi e modi possibili. E ne parliamo qui a Voci di piccola impresa. È un nuovo modo di fare green economy fatto per durare e per essere appunto sostenibile nel tempo, quello pensato da Pietro Colucci, presidente, fondatore e amministratore delegato del gruppo Kinexia. Ha lanciato un social network dell'energia, il progetto Smart di Innovatech, azienda attiva nel settore delle energie rinnovabili, che sviluppa tecnologie, prodotti e servizi di smart grid, smart city e smart home per privati cittadini e piccole aziende, per andare oltre l'epoca degli incentivi e per un risparmio sulla bolletta energetica grazie a un'idea anticrisi, la creazione di una community di autoproduttori, PMI e privati che possono scambiarsi energia senza ricorrere alla rete elettrica, con vantaggi per i consumatori. Pietro Colucci spiega la sua idea di energia sostenibile. L'idea era quella di cercare di coniugare produzione di energia pulita, quindi come dire, alimentata da fonti rinnovabili, senza che questo fosse basato sugli incentivi, che sono in qualche modo un po' una droga di questo mercato, o almeno lo sono stati, e quello che è invece l'esigenza delle famiglie, delle piccole e medie imprese di risparmiare su una bolletta che purtroppo è tra le più care d'Europa. Si tratta di un sistema, diciamo, di autoproduzione, quindi ciascun utente produce la sua energia. Se la può stoccare, questa è la grande evoluzione tecnologica che si sta vivendo e che ancora di più si vedrà nei prossimi anni, poi in qualche modo l'energia può essere immagazzinata in batteria a litio e può essere poi consumata quando serve, cioè negli orari di picco del prezzo dell'energia, e quindi in qualche modo sfruttando il fatto che in fasce orarie il prezzo dell'energia è più alto, mentre invece quando è più alto si attinge alla propria batteria, e soprattutto lo si può fare lavorando sul web in comunicazione con altri soggetti. Quindi diciamo tutto il meccanismo dell'autoproduzione, quindi dell'energia verde e dello stoccaggio della stessa, poi può essere condiviso con altri soggetti, sia in termini soltanto di scambio di informazione, quindi in termini di circolazione delle informazioni, quindi creando una community di utenti autoproduttori. Ma in teoria, almeno dal punto di vista tecnologico, è possibile, poi il legislatore ci dirà se potremo o non potremo farlo, anche in termini di vendita fra utenti diversi dell'energia prodotta. Ecco, questo progetto Smart, per essere realizzato, di quale aiuto ha avuto bisogno? Chi vi ha aiutato? È stato un progetto che è evoluto all'interno dell'azienda, perché eravamo ben consci del fatto che gli incentivi messi a disposizione del sistema di energie rinnovabili servivano nell'ottica del legislatore a far crescere un comparto che poi avrebbe dovuto camminare nel tempo con le proprie gambe. E quindi noi, che non siamo operatori mordi e fuggi, ma che siamo operatori che intendono restare nel mondo della green economy e dare un contributo in questo senso, diciamo, all'economia nazionale e al paese, abbiamo lavorato nell'ottica di dire cosa sarebbe successo se e quando fossero finiti gli incentivi, cosa che poi effettivamente è accaduta. E quindi abbiamo immaginato un modello basato sull'innovazione tecnologica, basato quindi sull'energia rinnovabile, che è la lotta ai cambiamenti climatici, quindi diciamo il tema verde che poi ispira la nostra impresa, è basato sulla competenza di ragazzi che hanno fatto esperienza nel settore e che quindi erano ben consci di quanto le famiglie e le piccole imprese avessero bisogno di aiuto nella logica di capire come sottrarsi a una bolletta così cara. Ecco, questo è bellissimo e vi rende merito. Sì. Quindi la competenza è stata la chiave per dare una svolta, non solo i soldi, perché anche di iniezioni di capitale avete avuto bisogno, no? Sì, il nostro gruppo è quotato in borsa al mercato telematico azionario, ma questa iniziativa di Innovatech, quindi la società dedicata all'innovazione e all'autoproduzione di energia, abbiamo dovuto cercare risorse sul mercato, trattandosi di fatto di una start-up, e abbiamo quindi approcciato al mercato dell'EI in Italia, quindi al mercato piccolo basato sull'innovazione tecnologica, e abbiamo quotato questo progetto a dicembre scorso, raccogliendo sul mercato 5 milioni e mezzo di capitali che ci hanno consentito di fare ulteriori investimenti in innovazione e quindi lanciare ancora più avanti il progetto. A questo punto il vostro modello di business si capisce molto bene, ma in poche parole qual è? È quello che noi forniamo non più prodotti all'utenza, quindi alle famiglie, alle piccole e medie imprese, perché ormai i prodotti, il pannello fotovoltaico piuttosto che la batteria, sono commodity distribuibili e trovabili anche da IKEA, ma forniamo servizi energetici, cioè abbiamo cambiato il nostro modello di business per cui le famiglie e le imprese riceveranno un servizio che è omnicomprensivo, quindi un canone di gestione che è omnicomprensivo anche di elementi di fornitura, cioè di beni all'interno del servizio stesso, e che possano, tutto autofinanziato da credito al consumo, che quindi possano confrontare e quindi evidentemente notare ogni mese la differenza tra il canone che pagheranno alla società che li finanzia, quindi alla società al consumo che assieme a noi conduce questo progetto, e la bolletta che prima sostenevano, evidentemente scoprendo che c'è un risparmio variabile tra il 30 e il 50% che immediatamente può essere contabilizzato e va a servizio del budget della famiglia e dell'impresa. Motori verdi. Per farli funzionare, Exergi, azienda tutta italiana, ha sviluppato una nuova tecnologia per la produzione di energia efficiente e pulita, che rende possibile sfruttare l'energia termica di fonti che prima non potevano essere utilizzate e trasformarla in elettricità. L'attività di ricerca e sviluppo viene condotta nello stabilimento di Varese, ma grazie ai risultati e a commesse di milioni, Exergi sta crescendo all'estero e anche dal punto di vista della forza lavoro, andando controcorrente in questo momento di crisi. Claudio Spadaccini, amministratore delegato di Exergi e ideatore della nuova tecnologia, racconta il percorso che ha portato Exergi a rappresentare una best practice italiana nel campo delle rinnovabili. L'idea alla base della tecnologia di Exergi è lo sviluppo di una nuova tecnologia, dei nuovi motori in grado di produrre energia elettrica partendo dalle fonti di calore. A differenza dei motori normali che tutti conosciamo, i motori endotermici che usano del combustibile, i nostri motori utilizzano energia termica che può derivare da fonti sostenibili, quali sono il solare, la biomassa, la geotermia e il recupero energetico. Quindi la tecnologia sviluppata da Exergi cerca di dare risposta a quella che è una esigenza, direi urgente e globale, che è la maggior richiesta di energia sostenibile, andando a cercare di coprire quel gap fra l'esigenza e la disponibilità che è riconosciuta di energia appunto sostenibile, che ho detto essere quella solare, la biomassa, la geotermia e il recupero energetico. La nostra tecnologia introduce dei macchinari che hanno la caratteristica di essere più efficienti, con una maggior potenza specifica e quindi con una maggior competitività, con un costo inferiore. Nel dettaglio noi abbiamo introdotto una tecnologia che si chiama turbina radiale outflow, che ha la caratteristica di avere molti stadi di espansione su un unico disco rotorico e quindi appunto caratterizzano questa macchina per una maggior potenza a parità di dimensione della macchina e per una maggiore efficienza e un minor costo specifico. Questo è un grande aiuto al pianeta, diciamo, e alle persone, ma vogliamo capire anche chi ha aiutato voi a fare questo salto di qualità. Noi abbiamo trovato sicuramente un ambiente ideale quando il gruppo industriale Maccaferri ha deciso di investire, credendo sulla nostra idea, e di investire sulla nostra tecnologia. Quindi vi siete messi sul mercato e fondamentalmente qualcuno ha avuto interesse in voi e soprattutto ha avuto interesse nella vostra idea rivoluzionaria. Quanto avete aumentato le commesse? Da che cosa è composto il vostro modello di business e su che cosa guadagnate? La tecnologia, diciamo, di Exergi ha saputo affermarsi a livello internazionale molto rapidamente grazie alla bontà della tecnologia, quindi proprio all'efficienza e al grado di innovazione all'interno del nostro prodotto, unitamente alla capacità della nostra società all'interno del gruppo industriale Maccaferri di potersi presentare al mercato internazionale con elevata affidabilità sia da un punto di vista, diciamo, finanziario, appunto facendo parte di un gruppo industriale così solido e così presente a livello internazionale. Nel nostro modello di business la leadership tecnologica e la leadership che noi vogliamo proporre sul mercato passa tutta attraverso l'innovazione, quindi noi continuiamo ad investire su giovani talenti,